tratto da L'amore, quando il cristianesimo SI trasforma in SE Nuovo Testamento, IM e Nuovo Testamentualismo. Di loro si dice: scannano uomini, baciano vitelli. Osea 13, 2. In materia di scienze naturali esiste una classificazione del mondo in tre regni: regno minerale, vegetale, animale. Il credente, come ogni essere umano, appartiene al regno animale, mentre il regno minerale, sassi, metalli, non prova sensazioni e emozioni, il regno vegetale e animale si esprime con dei sentimenti. Forse qualcuno penserà che una pianta, la quale appartiene al regno vegetale, non provi emozioni, ma ciò non è vero. Se voi strappate un ramo da una pianta nel periodo della fioritura, essa soffre. Non è una sofferenza cosciente come la nostra, ma comunque la pianta ne risente perché in lei c'è vita, mentre un sasso, se viene spezzato, non ne risente. Dunque, dove c'è vita, vi è espressione. Espressione questa che si nota maggiormente nelle bestie. Proprio per questo le bestie si chiamano animali, una parola che deriva dal latino animalis, cioè che dà vita, animato. Per questo non solo l'uomo o le bestie appartengono al regno animato, ma anche la pianta, perché essa produce vita mediante il suo seme. Dunque, l'uomo non è un animale, ma appartiene al regno animale, parola questa che deriva anche da anima, che in senso lato viene riferita a ogni organismo vivente dotato di moto e di sensi. L'uomo quindi, come le bestie, ha una vita emotiva, composta di sentimenti che possono comprendere la gioia, la felicità, l'allegrezza, l'eccitazione, la depressione, la tristezza, la malinconia, il tormento, la sofferenza, la confusione, l'ansia, lo zelo, la freddezza, la concupiscenza. È normale, quindi, che l'uomo provi tutte queste emozioni, ma non dimentichiamo che il peccato ha corrotto ogni nostra espressione emotiva. Ciò ci porta ad affermare solennemente che la vita emotiva può essere considerata il più terribile nemico della vita di un credente che desidera vivere per lo Spirito Santo. Non è difficile dimostrare che i nostri sentimenti, le sensazioni, l'emotività siano corrotti per natura. Verdù, che strangolava le donne, non voleva che si tirasse la coda al suo gatto o che si strappasse un petalo a una rosa. Il famoso aguzzino, comandante del lager di Auschwitz, accompagnava i suoi bambini a porgere il cibo ai gentili cerbiatti. I nostri sentimenti sono talmente corrotti che ogni manifestazione emotivamente positiva la chiamiamo amore. Se ci commuoviamo fino alle lacrime davanti a una sofferenza, questo non è amore, ma sensibilità. Se ci lasciamo prendere dalla personalità di una persona o dal suo fascino, se troviamo il suo spirito interessante, non si tratta di amore, ma ammirazione. Se invece desideriamo ottenere uno sguardo, una carezza, un bacio, se siamo pronti a tutto pur di possederla, non si tratta di amore, ma sensualità. Amare non è essere commosso da un altro. Avere dell'affetto sensibile per un altro. Abbandonarsi a un altro. Ammirare un altro. Desiderare un altro. Voler possedere un altro. Questi aspetti possono far parte dell'amore, ma non sono ancora l'amore. Quando esaminiamo le contraddizioni dell'uomo siamo tentati di sorridere. Eppure, anche se in forma diversa, noi cristiani ci comportiamo in questo modo sia nella vita quotidiana, sia nella convivenza fraterna. Il profeta Osea stigmatizzò il popolo di Israele. Di loro si dice: scannano uomini, baciano vitelli. In effetti i giudei baciavano le immagini dei loro vitelli. E contemporaneamente si facevano guerra gli uni gli altri. Era un contrasto enorme, poiché Dio aveva ordinato di scannare i vitelli e baciare gli uomini, ma i loro sentimenti gli portavano ad avere questo comportamento. Vi sono cristiani che ogni giorno baciano il Signore mentre hanno una continua guerra con altri cristiani. Ho letto di una chiesa che si era divisa in modo doloroso. In seguito i due gruppi ogni domenica andavano a baciare il Signore entrando in due locali diversi, divisi solo da una porta. A volte noi credenti abbiamo atteggiamenti o pensieri che apparentemente sembrano cristiani, ma alla fine risultano essere frutto soltanto della nostra emotività. Ancora una volta dobbiamo constatare che scambiamo i nostri sentimenti per amore, mentre l'amore non è un sentimento, anche se produce dei sentimenti. Malati come siamo di romanticismo, abbiamo dell'amore un'idea o un metro che non coincidono con quelli di Dio. Se Dio ci ordina di custodire il cuore più di ogni altra cosa, Proverbi 4:23, ciò significa che ogni giorno e ogni istante dobbiamo fare attenzione di scambiare il nostro sentimentalismo con l'amore che Dio richiede, perché cadremmo in una delle più grandi trappole del maligno. Nel nostro modo di essere cristiani il sentimento gioca un ruolo determinante, per cui dobbiamo chiederci: quando e quanto nel mio essere cristiano sono un sentimentalista? Molto probabilmente la lezione più difficile da imparare è quella di conoscere se stessi. Comprendere quanto siamo corrotti, superficiali, peccatori e privi di ogni virtù. Esaminiamo alcuni atteggiamenti o comportamenti che sono il frutto di un melenso sentimento romantico, anziché di un amore reso intelligente dal timore di Dio. 1. E sentimentalismo se affermiamo di amare Dio e non osserviamo la sua parola. Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. 1 Giovanni 5, 3. L'amor di Dio è che osserviamo la sua parola. Giovanni accusa di menzogna coloro che affermano di essere cristiani e non osservano i comandamenti di Dio. 2, 4 a 5. Coloro che sentono di amare Dio provano verso di lui forti emozioni e in seguito fanno quello che vogliono, sono ingannati dai loro stessi sentimenti. Dobbiamo accettare che le nostre reazioni emotive all'amore di Dio non sono poi così tanto pure e profonde come pensiamo. Nell'onda dei sentimenti ci sembra di amarlo senza limiti, ma, come Pietro, cadiamo miseramente davanti alla prima prova. L'amore per Dio è dunque sempre coniugato all'ubbidienza dei suoi comandamenti. 2. E sentimentalismo, se affermiamo di amare il fratello e non facciamo nulla per lui. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. I Giovanni 3, 17-18. Non si ama il prossimo provando verso di lui dei sentimenti positivi, ma occupandosene concretamente. Giovanni invita ad amare il fratello non con parole vuote e discorsi sentimentali, ma imitando Gesù che è arrivato a dare la sua vita. I sentimenti possono aiutarci a rivolgerci verso il prossimo, ma se restano a livello di emozioni non dobbiamo scambiarli per amore. Quante volte ho sentito pregare: Signore, tu sai quanto amo i miei fratelli, per poi criticarli o aspettarsi da loro solo dei favori? 3. E sentimentalismo se viviamo sulla base della nostra emotività e non dei doveri. Perché se evangelizzo non devo vantarmi, poiché necessità men è imposta. E guai a me se non evangelizzo. Se lo faccio volenterosamente ne ho ricompensa, ma se non lo faccio volenterosamente è sempre un'amministrazione che mi è affidata. I Corinzi 9, 15, 17. Paolo aveva ricevuto l'ordine di evangelizzare. Come uomo non poteva certo essere sempre sulla cresta dell'onda. Anch'egli a volte si sentiva giù, eppure qualsiasi fosse il suo sentimento, evangelizzava, perché questo era il suo mandato. Agire solo sulla base dei desideri significa non imboccare la strada della maturità. E il bambino che si lascia condurre dai suoi sentimenti. Egli piange perché vuole mangiare subito, pesta i piedi perché vuole un giocattolo. Solo l'adulto sa inibirsi, rinviare i suoi desideri. Solo l'adulto prega, legge e frequenta le riunioni perché sa che ciò è giusto e non perché se la sente. Qualcuno ha detto che una persona si dona o si possiede nella misura in cui dona o possiede il suo sentimento. Ancora una volta vorrei rassicurare certi cristiani che pregare, leggere e ogni attività religiosa fatta con sentimenti contrastanti non è ipocrisia, ma è un atto di maturità e coerenza. Quando i credenti esprimono subito il loro disappunto, ciò è dovuto all'immaturità. Lo stolto prende piacere non nella prudenza, ma soltanto nel manifestare ciò che ha nel cuore. Proverbi 18, 2. La saggezza sta nella riflessione e nel discernimento, e non nella spontaneità. Il credente la cui condotta e la cui attività hanno la loro sorgente principale nella vita emotiva è immaturo, disutile sia a Dio sia agli uomini. 4. E sentimentalismo se riteniamo che riprendere un fratello sia mancanza d'amore. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore. Rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono Yahweh, Levitico 19, 17-18. E sentimentalismo sopportare e poi diventare cinici. E sentimentalismo la rassegnazione per poi serbare rancore. E sentimentalismo fare finta di niente e poi covare rabbia nel cuore. Riprendere il prossimo quando il suo modo di fare ti turba, quando il suo comportamento ti porta a peccare, è indice di amore. Riprendere piuttosto che peccare, ecco l'ordine. Non dobbiamo sottovalutare ciò che dicono i proverbi. Meglio riprensione aperta che amore nascosto, Proverbi 27:5. Chi ama ferisce ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci, Proverbi 27:6. Il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro, Proverbi 27:17. L'uomo che corregge sarà, alla fine, più accetto di chi lusinga con la sua lingua, Proverbi 28:23. 5. E sentimentalismo se riteniamo di dover sempre subire. Difendi la tua causa contro il tuo prossimo, Proverbi 25:9. Se vi è l'opinione che occorre sempre subire le offese, o che si debba sempre perdonare, essa è nata da una interpretazione errata, da una ingiunzione di Gesù, porgi l'altra guancia. Se fosse questa la giusta interpretazione, Gesù avrebbe contraddetto la legge di Dio, la quale ci ordina di difendere le nostre cause. Inoltre, se Gesù ci invitasse a subire sempre, nessun cristiano dovrebbe far valere i suoi diritti. Da quanto mi risulta, nessuno lo fa. Paolo in Corinzi 6:1-8 non invita i cristiani a sopportare sempre dei torti, ma qualche torto. È evidente che Gesù sta ordinando di porgere l'altra guancia a causa della nostra fede, e il cristiano deve seguire l'esempio del suo maestro. Teniamo presente l'invito di Dio. Non ti affrettare a intentare processi, perché alla fine tu non sappia che fare, quando il tuo prossimo ti avrà svergognato. Difendi la tua causa contro il tuo prossimo. Proverbi 25:8-10. Vi sono cristiani dal carattere docile, non per opera dello Spirito Santo, ma solo per debolezza. 6. E sentimentalismo se si ritiene che i figli non vadano corretti, ma solo consigliati e istruiti. Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Proverbi 13:24. Correggere un figlio è sempre doloroso per un genitore, perché i suoi sentimenti sono tremendamente messi alla prova. I figli vanno corretti per tempo perché in seguito sarà troppo tardi. Proverbi 19:18. Teniamo presente l'ordine di Dio, non risparmiare la correzione al bambino. Se lo batti con la verga, non ne morrà. Lo batterai con la verga, ma lo salderai dal soggiorno dei morti. Proverbi 23:13-14. Al riguardo desidero ricordare ciò che ha detto Finney, fino a quando i cristiani non avranno motivi più elevati nell'offrire la preghiera, fino a quando non si elevi al di sopra dei sospiri di tenerezza materna e paterna, fino a quando non saranno spinti da sentimenti di simpatia, le loro preghiere e le loro fatiche avranno ben poco effetto. 7. E sentimentalismo se si ritiene di dover sempre essere cortesi, di accondiscendere. Più di una volta Gesù si rifiuta di rispondere, Marco 14:61. Un'altra volta Gesù si rifiuta di fare un miracolo, Matteo 12:38-42. Gesù rovescia le tavole dei cambiamonete nel Tempio, Matteo 21:12-17. Gesù ha spesso guarito di sabato come atto di provocazione, Marco 3:1-5. Questi esempi ci mostrano che Gesù andava contro i canoni culturali e religiosi del suo tempo, pur di insegnare e stimolare l'uomo verso ciò che è duraturo. Mentre le regole religiose sono spesso fine a se stesse, la vera religione tende al superamento di se stessa, non le preme tanto gli atti specifici religiosi, quanto la liberazione di ogni specificazione per tendere alla pura e semplice vita quotidiana condotta dallo Spirito Santo. Qualcuno ha detto che tutto il nostro ragionare spesso si riduce a cedere al sentimento. Può darsi. Ecco perché Gesù ha parlato chiaro: se uno mi ama, osserverà la mia parola, chi non mi ama, non osserva le mie parole. La prova del nostro amore per Gesù non è data dalle forti emozioni per Lui, dagli impulsi improvvisi, da un attaccamento sentimentale, ma dall'osservanza della Sua volontà. Dio ci chiede, come meta, non di diventare buoni, ma santi. E tali possiamo esserlo solo avendo un'etica e dei sentimenti modellati, secondo i canoni della Scrittura. Non vorrei però lasciare un'impressione sbagliata. I nostri sentimenti sono un dono di Dio e non vanno rifiutati, ma essi devono essere controllati e dominati. Lo scopo di Dio nel tritare il nostro entusiasmo è quello di insegnarci a basare la nostra vita cristiana sui proponimenti anziché sui sentimenti, in modo da arrivare ad amare Dio solo perché è Dio come atto di volontà. Quando i nostri sentimenti sono conformi alla volontà di Dio, continuiamo il cammino senza porci problemi. Altrimenti facciamo ciò che è giusto anche se questo ci costa uno sforzo a livello emotivo. A questo proposito leggiamo uno dei brani più belli della Scrittura per il nostro tema. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. 1 Giovanni 3,18-22. L'amore di Dio non l'abbiamo compreso dai sentimenti che Egli provava, ma dai fatti. Egli ha dato la sua vita per noi. Il sacrificio di Cristo non rimane solo una rivelazione dell'amore di Dio da ammirare, è un esempio da imitare. Noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Il vero amore non si rivela solamente nel sacrificio supremo, esso si esprime in tutti gli atti minori del dare. Proprio per questo Giovanni invita i credenti a un amore pratico e non teorico o formulato solo verbalmente. Sono i fatti che garantiscono la sincerità delle nostre parole. Solo con i fatti possiamo rendere sicuri noi stessi, perché ogni altra espressione del nostro amore non è sufficiente. Che Dio ci dia di servirlo non solo con il nostro corpo, la nostra mente, ma anche con le nostre emozioni, con i nostri sentimenti. Allora il nostro cristianesimo non si trasformerà in sentimentalismo, ma mediante i sentimenti renderemo la vita cristiana piena di giuste e lecite emozioni. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. 1 Pietro 1:22. Luglio 1990. Elleru,